Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Lettera della signorina Mina Murray alla signorina Lucy Westenra. 9 maggio. Mia carissima Lucy, perdonami il lungo ritardo nello scriverti, ma sono stata letteralmente oberata di lavoro. La vita di un insegnante è talvolta piuttosto faticosa. Vorrei essere con te sulla sponda del mare, dove potremmo parlare liberamente e costruire i nostri castelli in aria. In questi ultimi tempi ho lavorato a sodo, perché voglio tenermi a livello degli studi di Jonathan, e mi sono esercitata assiduamente nella stenografia. Quando saremo sposati, potrò essere utile a Jonathan, e se sarò in grado di stenografare abbastanza bene, potrò scrivere così quello che dice e ricopiarglielo poi a macchina. Infatti continuo a esercitarmi anche con la macchina. Qualche volta noi ci scriviamo in stenografia, e lui tiene un diario stenografico dei suoi viaggi all'estero. Quando sarò con te, terrò anch'io un diario in stenografia. E non parlo di uno di quei diari di 2 paginette la settimana e appena una frasetta per la domenica, ma di una specie di giornale su cui annotare tutto quello che mi sentirò di scrivere. Non credo che avrà qualche interesse per gli altri, ma non è destinato a loro. Forse lo farò leggere a Jonathan una volta o l'altra, se sarà il caso di mettere qualcosa in comune. Ma in realtà si tratta di un semplice quaderno. Tenterò di fare come le giornaliste, intervistare, scrivere descrizioni e cercare di rammentare le conversazioni. A quanto mi si dice, con un po' di pratica si riesce a ricordare tutto quanto succede o si sente dire in una giornata. Comunque staremo a vedere. Quando ci incontreremo ti parlerò di tutti i miei piccoli progetti. Ho appena ricevuto poche righe frettolose da Jonathan, dalla Transilvania. Sta bene e sarà di ritorno tra una settimana circa. Non vedo l'ora che mi racconti tutto. Come deve essere bello visitare paesi stranieri. Chissà se noi, intendo Jonathan e io, potremo mai viaggiare insieme. Suonano le 10. Addio. La tua affezionatissima Mina. Scrivimi tutte le novità nella tua prossima lettera. È un pezzo che non mi racconti niente. Ho sentito delle chiacchiere, in particolare su un bell'uomo alto e ricciuto. Lettera di Lucy Westenra a Mina Murray. Chatham Street. 17, mercoledì. Mia carissima Mina, è molto ingiusto che tu mi accusi di scriverti poco. Ti ho scritto 2 volte da quando ci siamo separate e la tua ultima lettera era soltanto la seconda. Inoltre, non ho niente di speciale da dirti, niente che ti possa interessare. La città è molto piacevole ora. Andiamo sovente a visitare mostre di pittura, facciamo passeggiate a piedi e a cavallo nel parco. Quanto all'uomo alto e ricciuto, presumo sia quello che era con me all'ultimo concerto di musica popolare. Qualcuno evidentemente ha raccontato delle storie. Si tratta del signor Holmwood. Viene spesso a trovarci. Va molto d'accordo con la mamma, hanno tante cose in comune di cui parlare. Abbiamo conosciuto un po' di tempo fa un uomo che andrebbe proprio bene per te, se tu non fossi già fidanzata con Jonathan. È un ottimo partito, di bell'aspetto, ricco e di buona famiglia. Ma pensa, ha 29 anni appena ed è già il direttore unico di un grandissimo manicomio. Me lo ha presentato il signor Holmwood. E lui è venuto a farci visita e ora ritorna spesso. A parer mio è uno degli uomini più determinati che io abbia conosciuto e al tempo stesso il più calmo. Sembra assolutamente imperturbabile. Posso capire che abbia uno straordinario potere sui suoi pazienti. Ha la curiosa abitudine di guardare il suo interlocutore diritto in faccia come se volesse leggergli nel pensiero. Lo ha tentato spesso anche con me, ma io mi lusingo all'idea di essere un osso duro da rodere. Me lo dice il mio specchio. Hai mai provato a leggere nel tuo volto? Io lo faccio, e posso assicurarti che non è uno studio di poco conto. È assai più difficile di quanto non immagini chi non l'abbia mai tentato. Egli sostiene che io costituisco per lui un interessante studio psicologico. E io reputo umilmente che abbia ragione. Come sai, non mi interesso abbastanza di vestiti per poter descrivere la nuova moda. Occuparsi di abbigliamento è una scocciatura. Ecco che ricasco nel gergo, ma poco importa. Arthur usa sempre di queste espressioni. Bene, questo è tutto. Mina, noi ci siamo sempre confidati i nostri segreti fin da quando eravamo piccole. Abbiamo dormito insieme, abbiamo mangiato insieme, abbiamo riso e pianto insieme. E ora, detto questo, vorrei dirti di più. Oh, Mina, non riesci a immaginarlo? Io lo amo. Arrossisco nello scriverlo, perché, anche se credo che mi ami anche lui, egli non me lo ha detto in chiare parole, ma io, Mina, io lo amo, lo amo, lo amo. Ecco, dirlo mi fa bene. Vorrei essere con te, mia cara, a sedere accanto al fuoco, preparandoci per la notte come facevamo un tempo. Poi io cercherei di spiegarti quello che provo. Oddio, non so come faccio a scrivere queste cose, anche se le scrivo a te. Ho paura di smettere, potrei anche stracciarla, questa lettera. Ma non voglio smettere, perché ho un tale desiderio di dirti tutto. Rispondimi subito e dimmi quello che pensi di questo. Qui devo chiudere, Mina. Buonanotte. Ricordami nelle tue preghiere e prega per la mia felicità. Lucy, post scriptum. Inutile dirti che si tratta di un segreto. Ancora buonanotte. L. Lettera di Lucy Westenra a Mina Murray. 24 maggio. Mia carissima Mina, grazie, grazie, mille volte grazie per la tua tenera lettera. È stato tanto bello poterti dire tutto e avere la tua comprensione. È proprio vero, mia cara, che piove sempre sul bagnato, come sono genuini i vecchi proverbi. Ecco, compirò 20 anni in settembre e finora non avevo mai ricevuto una vera e propria proposta di matrimonio, mentre oggi ne ho avute 3, ci pensi? 3 proposte in un giorno solo. Non è impressionante? Mi rincresce. Mi rincresce davvero sinceramente per 2 di quei poveretti. Oh, Mina, sono così felice che non so che cosa fare di me stessa. E 3 proposte, ma per amor del cielo non una parola con le ragazze, che altrimenti si farebbero chissà quali idee stravaganti e si sentirebbero umiliate e offese se non avessero almeno 6. Nel primo giorno di ritorno a casa. Certe ragazze sono così vanitose. Noi due, cara Mina, essendo fidanzate, in procinto di sistemarci tranquillamente nella condizione di donne sposate, possiamo anche disprezzare la vanità. Bene, voglio ora raccontarti dei 3, ma è una confidenza che devi tenere segreta con tutti, escluso Jonathan, naturalmente. E gliene parlerai, perché io lo farei se fossi al tuo posto, e certo lo direi ad Arthur. Una donna dovrebbe dire tutto al marito, non credi, cara? Io devo essere sincera. Agli uomini piace che le donne, e le mogli soprattutto, siano schiette come loro, ma le donne, temo, non sempre sono leali come dovrebbero essere. Dunque, cara, il numero 1. Si è presentato poco prima di pranzo. Te ne ho già parlato, è il dottor John Seward, il direttore del manicomio, l'uomo dalle mascelle brustute e bella fronte. Era molto freddo esteriormente, ma al tempo stesso nervoso. Si era preparato, mi è parso evidente, su tutti i minimi particolari e li ricordava. Ma ci è mancato poco che non si sedesse sul suo cappello di seta, cosa che in generale gli uomini non fanno quando sono calmi. E poi, volendo apparire disinvolto, ha seguitato a giocherellare con un bisturi in un modo che mi innervosiva, tanto che quasi mi sarei messa a urlare. Mi ha parlato con grande sincerità, Mina. Mi ha detto che, sebbene mi conoscesse da poco tempo, gli ero molto cara e che la sua vita sarebbe cambiata se mi avesse avuta con sé per aiutarlo a rallegrarlo. Stava per spiegarmi quanto si sarebbe sentito infelice se io non mi fossi curata di lui quando mi ha vista piangere. Allora ha detto che era un bruto e che non voleva accrescere il mio turbamento. Si è interrotto e poi mi ha chiesto se credevo di poterlo amare in seguito. Al mio cenno di diniego, le sue mani hanno avuto un tremito. Dopo una certa esitazione mi ha domandato se non fossi già innamorata di un altro. Lo ha fatto con molto garbo, aggiungendo che non voleva certo strapparmi una confidenza, ma soltanto sapere. Perché se il cuore di una donna è libero, un uomo può conservare qualche speranza. Allora, Mina, ho sentito il dovere di dirgli che c'era un altro, effettivamente. Non gli ho detto niente di più. A questo punto si è alzato e con un'espressione molto seria e decisa mi ha preso entrambe le mani tra le sue e mi ha augurato ogni felicità. Poi ha aggiunto che se mai avessi avuto bisogno di un amico avrei sempre dovuto contare su di lui. Oh, Mina, non riesco a trattenere le lacrime e ti prego di scusarmi per questa lettera piena di macchie. Ricevere una domanda di matrimonio e tutto quanto è piacevolissimo. Ma non puoi certo sentirti felice nel vedere un uomo che, tu lo sai, ti ama sinceramente, andarsene con il cuore spezzato e capire che qualsiasi cosa possa averti detto sul momento, tu stai uscendo dalla sua vita. Ora devo interrompermi, mia cara, mi sento tanto sconsolata, anche se sono molto felice. Sera. Arthur è appena andato via e il mio morale è molto più alto di quando ho smesso di scrivere, così posso continuare a raccontarti la mia giornata. Dunque, mia cara, il numero 2 è giunto dopo pranzo. È un giovanotto, simpaticissimo, un americano del Texas, con un aspetto così giovane e fresco che sembra quasi impossibile che abbia viaggiato tanto e abbia avuto avventure simili. Capisco la povera Desdemona, quando si è sentita riversare nelle orecchie quel pericoloso fiume di parole, anche se a farlo era un negro. Noi donne, presumo, siamo così pusillanimi da credere che un uomo possa preservarci dalle nostre paure e lo sposiamo. Ora so che cosa farei se fossi un uomo e volessi indurre una ragazza ad amarmi. No, no, non è vero, perché qui c'era il signor Morris a raccontarmi le sue storie, mentre Arthur non me ne ha mai raccontata nessuna. Eppure, ma mia cara, io sto anticipando i fatti. Dunque, il signor Quincy P. Morris mi ha trovata sola. Sembra che un uomo Morris sia sempre a trovare una ragazza sola. No, invece. Perché Arthur ha tentato 2 volte di avere una possibilità e per giunta con il mio aiuto. Adesso non mi vergogno di confessarlo. Devo premettere che il signor Morris non parla mai in slang. Voglio dire che non lo fa mai in presenza di estranei perché è veramente ben educato e ha modi squisiti. Ma ha scoperto che io mi divertivo nel sentirlo parlare lo slang americano e davanti a me, quando non c'erano altri che si sarebbero potuti scandalizzare, diceva cose molto buffe. Sospetto, mia cara, che se lo dovesse inventare tutto, perché si adattava sempre a quello che aveva da dire. Ma questo è tipico dello slang. Non so se io stessa riuscirei mai a parlarlo, né se ad Arthur piaccia, perché finora non l'ho mai sentito adoperarlo. Il signor Morris, dunque, si è seduto vicino a me, con l'aria di essere l'uomo più allegro e felice del mondo. Ma io capivo benissimo che era assai nervoso, e prendendomi una mano mi ha detto con grande dolcezza: «Signorina Lucy, so di non essere degno di allacciarvi i nastri delle scarpine, ma se aspetterete di trovare un uomo che lo sia, finirete, ci scommetto, con quelle 7 fanciulle che reggono il moccolo alle altre. Perché non bardarci tutti e 2 per fare una pariglia e percorrere insieme la lunga strada?» Insomma, mi pareva così allegro e di buon umore che mi è parso molto più facile opporre un rifiuto a lui che al povero dottor Seward. E così gli ho risposto, nel tono più leggero possibile, che non sapevo niente di pariglie e non ero ancora pronta a bardarmi per partire. Allora egli mi ha chiesto scusa di avere commesso un errore parlandomi in tono scherzoso di una questione tanto grave e importante per lui. Nel dirmi queste parole aveva davvero un'aria seria, tanto che mi sono sentita piuttosto seria anch'io, pur non potendo fare a meno. Lo so, Mina, che mi giudicherai una tremenda civetta, di provare una certa esultanza all'idea di aver ricevuto due dichiarazioni in un solo giorno. E allora, mia cara, prima che io potessi aprire bocca, mi ha riversato addosso un profluvio di espressioni d'amore, mettendo ai miei piedi il suo cuore e la sua anima. Ma certo, c'era molta gravità in lui. Non penserò più che un uomo deve essere sempre scherzoso e non mai serio, soltanto perché si dimostra spesso allegro. Io credo che abbia visto qualcosa sul mio viso, perché si è interrotto controllandosi. Poi ha detto con un virile fervore che avrebbe potuto farmi innamorare di lui se fossi stata libera. Voi siete una ragazza dal cuore sincero. Non vi parlerei come sto facendo ora se non vi credessi limpida nel profondo dell'animo vostro. Ditemi soltanto come si fa tra buoni compagni, se amate qualcun altro, perché se è così non vi disturberò più, neanche minimamente, ma se me lo permetterete, sarò un amico molto fedele. Mia cara Mina, ma perché gli uomini sono così nobili e noi donne tanto poco degni di loro? Ecco, io ero stata sul punto di prendere in giro questo cuore generoso, questo vero gentiluomo. Sono scoppiata in lacrime. Temo, mia cara, che troverai questa lettera molto sciatta in tutti i sensi e mi sentivo davvero molto triste. Ma perché a una ragazza non è consentito di sposare tre uomini, o almeno tutti quelli che la desiderano, e risparmiare così questi turbamenti? Ma questa è un'eresia e non la devo pronunziare. Sono contenta di poterti dire che, pur piangendo, sono riuscita a guardare gli onesti occhi del signor Morris, dichiarandogli con sincerità: sì, c'è un uomo che amo, ma lui non mi ha mai detto di amarmi. Ho fatto bene a parlargli con tanta franchezza, perché il suo viso si è quasi illuminato e mi ha teso le mani per prendermene una. O forse sono stato io a metterla fra le sue e ha detto con viva cordialità: ecco una ragazza coraggiosa, è meglio arrivare in ritardo alla possibilità di avere in premio voi che in tempo per avere qualsiasi altra ragazza al mondo. No, non piangete, mia cara. Se è per me, io ho una scorza dura e so sopportare le avversità. Quanto all'altro, se ignora la sua fortuna, sarà bene che se ne accorga presto, o avrà a che fare con me. Bambina mia, la vostra franchezza e il vostro coraggio hanno fatto di me un amico, perché un amico è più raro di un innamorato e comunque meno egoista. E ora, mia cara, andrò a fare una bella passeggiata solitaria fino a Kingdom Come. Non volete darmi un bacio? Potrebbe scacciare le tenebre adesso, e in seguito me lo potete dare, sapete, se vi fa piacere, perché l'altro bravo ragazzo, e deve essere un bravo ragazzo, mia cara, un uomo eccellente, altrimenti voi non lo amereste, ancora non si è dichiarato. Così mi ha conquistata, Mina, perché il suo era un contegno coraggioso e gentile, e anche nobile verso un rivale, ma non ti pare? E poi lui era tanto triste. Allora mi sono fatta avanti e l'ho baciato. Egli si è alzato e, tenendomi le due mani tra le sue, mi ha guardato in viso. Io dovevo essere tutta rossa, temo, dicendo: bambina mia, io vi tengo la mano, voi mi avete baciato, e se questo non basta a renderci amici, non lo saremo mai. Grazie per la vostra dolce sincerità. E addio. Mi ha stretto la mano, ha preso il cappello ed è uscito dalla stanza senza voltarsi indietro, senza una lacrima, né un fremito, né un'esitazione, e io piangevo come una bambina. Ma perché un uomo simile deve essere reso infelice quando vi sono tante ragazze che adorerebbero il suolo su cui egli passa? Lo farei anch'io, se fossi libera, lo so. Ma non voglio essere libera. Tutto questo mi ha molto turbata, mia cara, e dopo avertelo raccontato non mi sento di parlarti subito della mia felicità, né desidero parlarti del numero 3 finché non sarò più serena. La tua affezionatissima Lucy. A proposito del numero 3, non occorre che io ti dia spiegazioni, vero? E poi è stato tutto così confuso. Mi è parso che passasse soltanto un attimo da quando lui è entrato nella stanza al momento in cui mi ha presa tra le braccia e mi ha baciata. io sono tanto, tanto felice. Non so che cosa io abbia fatto per meritarmelo. Non mi resta che cercare di dimostrare in futuro la mia gratitudine per la bontà di Dio che mi ha dato un simile innamorato, un simile marito, un simile amico. Addio. Diario del dottor Seward. Registrato fonograficamente. 25 maggio. Appetito in riflusso. Oggi. Non riesco a mangiare né a riposare. Diario, quindi. Dopo essere stato respinto, ieri provo una sensazione di vuoto. Non mi sembra vi sia al mondo nulla che valga la pena di fare. Ma sapendo che in simili casi l'unico rimedio è il lavoro, sono andato tra i pazienti. Ne ho scelto uno che già mi aveva fornito una materia di studio assai interessante. Ha idee così stravaganti ed è talmente diverso dagli altri pazzi che ho deciso di fare ogni possibile sforzo per capirlo. E oggi mi è parso di essermi avvicinato più del solito al nocciolo del suo mistero. L'ho interrogato più a fondo di quanto non avessi mai fatto, con l'intento di penetrare nei meccanismi delle sue allucinazioni. Nel mio modo di fare, ora me ne rendo conto, c'era una punta di crudeltà, quasi come se volessi bloccarlo nella sua follia, una cosa che evito con i pazienti come eviterei la bocca dell'inferno. Ricordarsi in quali circostanze non eviterei la bocca dell'inferno? Omnia Rome venalia sunt. L'inferno ha il suo prezzo. Se c'è qualcosa dietro questo istinto, varrebbe la pena di studiarlo a fondo. Quindi farei meglio a cominciare subito. Perciò, R. M. Renfield, 59 anni. Temperamento sanguigno. Grande forza fisica, eccitabilità morbosa. Periodi di depressione culminanti in certe idee fisse che io non riesco a comprendere. Penso che il temperamento sanguigno stesso e i disturbi mentali finiscano con l'integrarsi, formando un quadro ben definito. Un uomo potenzialmente pericoloso, probabilmente pericoloso nei suoi momenti di altruismo. Negli uomini egoisti la prudenza è una corazza sicura sia per i loro nemici sia per loro stessi. Al riguardo, la mia idea è questa. Quando il punto fisso è l'io, la forza centripeta è in equilibrio con la forza centrifuga. Se invece il punto fisso è costituito da un dovere, un ideale, eccetera, prevale la seconda di tali forze. E soltanto il caso o una serie di casi la possono bilanciare.